Ehi ehi ehi, sono le 7, sono le 7 del mattino di uno stramaledetto lunedì 26 di novembre. La voce che ascoltate è quella dell'Ariele. Vi arriva dal microfono sito in via Locatelli 1, 20124 Milano, primo piano, ascensore di sinistra, Rock FM. Sono filologico stamattina. Un saluto anche al mio regista Spadino, pronto per curare la parte tecnica di questa puntata numero 137. Iniziamo l'ultima settimana di novembre. Ah, sì. Così per dire una cosa su questo lunedì, no? Pane, burro e rock and roll. Questo è il nome della trasmissione. La tua colazione rock. Questo è il nostro obiettivo, servirvi la colazione. Pane, burro e rock and roll. Ah sì, vi tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Restate con noi. Sentirete delle belle. Se cerchi una radio che fa rockeggiare, ecco l'hai trovata. Nulla cambiare. Wait. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Il buongiorno a voi, il vostro caldo lettuccio, pronti ad affrontare questa nuova settimana. Un saluto a voi nelle vostre fredde autovetture, pronti ad affrontare il traffico crescente. Anche quest'oggi passerà a trovarci, se gli Eurostar non ci fanno casini, il nostro rocker di riferimento, Roberto Fricantoni. Sì, proprio lui, in persona, per tenerci compagnia e per costruire insieme questa puntata 137 di Pane, Burro e Rock and Roll. Segnalavo che è l'ultima settimana di novembre, non così perché non avevo nient'altro da dire, ma per avvisarvi, per iniziare a mettere le mani avanti dopo lunghe, estenuanti riunioni con la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Si è finalmente deciso: il mese di dicembre per noi di Pane, Burro e Rock and Roll non sarà un mese qualsiasi. Quindi se avete qualche piccolo problema ad ascoltare questa trasmissione, sappiate che a dicembre questi problemi peggioreranno. Aia, non dico niente però, non posso. Vediamo di iniziare al meglio con la colonna portante di questa trasmissione, il buon rock and roll. E si inizia alla stragrande stamattina, Senti qua che bel risveglio. Ragdoll, Ladies and Gentlemen, Aerosmith. Hai capito? Si inizia subito a ballare stamattina. Che roba! Ripping up the band. Joel, Aerosmith, i due fratellini tossici, no? I Toxic Twins, Steven Tyler and Joe Perry. Oh, barbiri bambira bambiri bambiri. Abbiamo fatto le presentazioni ufficiali e come ogni giorno vado a ricordarvi, vado a invitare anche a voi là fuori. Interagite con Pane, Burro e Rock and Roll, costruiamo insieme questo delirio radiofonico. Abbiamo a vostra disposizione un numero di SMS. Stamane vi sento particolarmente addormentati, eh? C'è qualche cosa che non va là fuori, amici? Mi segnalano una Pisa con nebbia che pare Milano. Allora, guarda, io ti controbatto con una Milano che pare Los Angeles, fondamentalmente. In realtà non lo so ancora. A quest'ora del mattino mi è dato intravedere solo il lampione crepuscolare che veglia sulla regia di Rock FM. Nient'altro. Però sembrava bello terso il cielo, così, arrivando fino a qui. Che ci volete fare? Non ci sono più le mezze stagioni e tutte quelle robe lì, no? Un abbraccio allora a voi toscani nella nebbia. Numero di SMS, dicevo, 335 100 77 77. Perché scrivere a Pane, Burro e Rock and Roll? Questa è una buona domanda, amici. Beh, potrei rispondervi non chiederti cosa PBR può fare per te, ma cosa tu puoi fare per PBR. Oppure posso dirti: ma a che gruppo d'ascolto appartieni? Cosa stai combinando di bello? Oppure ancora: è dura essere un rocker là fuori? Beh, raccontacelo. O perché no? Ne ho un'altra, Spadino, dopo andiamo col pezzo. O perché no? Vuoi diventare un musicista rock con la bocca? Fallo! Ne abbiamo tante di stupidate da fare a Pane, Burro e Rock and Roll, quindi interagite pure al nostro numero di SMS. E ricordo anche una casella di posta elettronica che invece è semplicemente ariel@radiorockfm.com. Siamo pronti con l'almanacco di questo 26 di novembre e intanto everybody's talking. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. che piacere invitare negli studi della diretta Roberto Fricantoni anche per questo lunedì. Buondì. Che c'è? Ma quale piacere! Che è successo? Maestro, non pianga! Non faccia così! Cosa è successo? È lunedì! Lo so, 26 novembre, sì, è un dramma, Inizia una dura settimana di lavoro. No, esatto, facciamola passare bene almeno ai nostri radioascoltatori con l'almanacco del giorno che fu. Evviva! Ecco. Mi sento già meglio, sono già ripreso. Oh, guardi che bello, il 26 novembre del 1942 ci fu la prima del film Casablanca all'Hollywood Theater di New York, il celebre film con Bogart. Io so che tra i suoi pezzi di repertorio c'è l'imitazione di Humphrey Bogart, le viene particolarmente bene. Bene, vero? Sì, certo, cara. Vai pure con lui. Peccato che i radioascoltatori non la possano vedere, perché c'è anche la bocca storta che le viene molto bene. Altre battute? Battute da fare col trench. Sì. Suonala ancora. Sì. Mi faccia un suonala ancora, Sam? Suonala ancora, Sam. Che roba, maestro. Lei è ricco di talento. Posso fare in inglese? Certo, deve. Play it again. Sam. Ah, che roba, un applauso glielo faccio io e la redazione, anche se non si sente che dall'altra parte del vetro. Proseguiamo, 1976, le pistole sexy, Sex Pistol, pubblicano la canzone simbolo del movimento punk, ovvero... Anarchy in the UK. Wanna be anarchy. Proseguiamo invece con un furtarello. Era il 1983 quando a Londra spariscono 6.800 lingotti d'oro per un valore di quasi 26 milioni di sterline. Vengono rubati dal caveau della British Met all'aeroporto di Heathrow. Ecco, che c'è, ecco, maestro? Ariel, io al riguardo, sì, avrei qui alcuni cubetti. Alcuni cosa sono cubetti d'oro questi? Beh, potrebbero essere. Ma c'è d'oro. C'è sul logo della British Met. No, è una fabbrica di cioccolato. Mi è venuta un'idea. Sì? C'è sempre il negozietto qua sotto. Compro oro, pago in contanti. Ci facciamo un salto? Sì, diamo un'occhiata, fa buoni prezzi? Yeah. myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind. Mamma, che se gliela rovino si incazzano questa, gliela lascio. Mamma, che roba. Se conosco i miei polli là fuori, così una Nothing Else Matters dei Metallica alle 7:20 del mattino, presumo faccia la sua porca figura, eh? Può essere, ci sta, anzi è sicuro. Così, gentilmente offerta dal servizio colazioni di pane, burro e rock and roll. Ma occupiamoci d'altro, è lunedì, quindi non dovremmo sentire il nostro fedelissimo Carlo Tabaccheria, e invece è qui in diretta con noi. Buongiorno Carlo. Eh sì, buongiorno, sono qua. Ricordiamo che con Carlo siamo riusciti a sdoganare i numeri del lotto per i Rockers. Sì, infatti è stata una cosa, veramente un'impresa ardua, però abbiamo ottenuto dei bei risultati. Però che ce l'abbiamo fatta, ci hanno insultato solo le prime 2-3 appuntamenti, dopo hanno capito secondo me il senso della roba e è andata. E comunque ci sono stati anche dei buoni vincitori, insomma. Hai capito? Hanno iniziato a vincersi la 50 euro e sono stati zitti. Esatto. Non li conoscessi. Sì, il tutto fa parte di questo grande filone filosofico inventato da Pane, Burro e Rock and Roll, per il quale tutto è rock, volendolo. Anche quello che non lo è. Sì, sì, infatti anche quello che circonda, diciamo, questa cosa, questa avventura che stiamo praticamente percorrendo. Bravo, bravo, mi piace molto questa immagine del percorrerla insieme. Nel percorso intrapreso con Carlo il tabaccaio si è immersa una persona fondamentale per Pane, Burro e Rock and Roll. Si chiama Carla e fa la portinaia, esatto. La nostra portinaia di riferimento, diciamocela. Sì, precisamente, lei è oltretutto esperta, insomma, comunque si dedica anche a qualcosa che circonda un po'. Vai piano a dire cose sbagliate, perché quella non te la fa passare, eh? Sì, infatti, però poi non mi martella. La signora Carla è innanzitutto un'ottima cuoca, perché ci ha fatto una torta da leccarsi i baffi. Secondo, è un'appassionata di lotto ed è per questo che ci segue e le diamo il buongiorno. Terzo, sa fare i tarocchi. Esattamente. Quindi in anteprima si potrebbe dare questa notizia che domani, insomma, per tutti gli ascoltatori ci potrebbe essere appunto questo tipo di iniziativa da parte di Carla che esatto. Vorrebbe proporre. Usiamo il condizionale, perché non si sa mai nulla, Pane, Burro e Rock and Roll. Però le reazioni sono imprevedibili. In teoria, quindi, domani nella prima ora potremmo tornare ad avere Carla in diretta. Esattamente, allora, fare i tarocchi, insomma. Esatto, su... lei vorrebbe farli sui numeri del lotto, perché lei è specializzata a fare i tarocchi sui numeri del lotto. Io allargherei, però, se tu sei d'accordo, visto che quotidianamente mi scrivono: puoi fare una strombazzata per questo, per quell'altro, per quella roba lì, per quell'altra roba lì? Volendo, domani abbiamo il servizio tarocchi, quindi noi avvisiamo. Sì, esatto, a questo punto gli ascoltatori potrebbero un attimino proporre loro a vedere se hanno intenzione. Si può interessare. Esatto, di farsi smorfiare o farsi un attimino indirizzare su qualche argomentazione che Carla potrebbe, esatto, diciamo a questo punto, smorfiare con le sue parole. Ricordiamo ai radioascoltatori che tra me e Carlo c'è questo accordo: dovesse andare male la radio, non dovessimo vincere la gara degli ascolti, io e Carlo ci facciamo assumere da una piccola televisione locale per dare i numeri del lotto. Sì, sì, già che ci siamo, stiamo allargando la situazione, ci buttiamo dentro anche Carla che fa i tarocchi, viene fuori un bel programmino televisivo per una televisione regionale che ci si lecca i baffi, guarda. È una roba proprio bella precisa. Carlo, buon proseguimento di giornata, resta in contatto e ti faccio sapere, io raccolgo prenotazioni per i tarocchi di Carla di domani. Sì, anche perché domani mattina appunto proporremo i tre numeri sui quali poi Carla farà i tarocchi direttamente, una cosa veloce appunto, esatto, come già dicevi tu, e poi eventualmente si potrebbe ampliare un po' il discorso, ecco. Carla, sì, buonanotte. Carlo, è fatta, a domani. Ciao. Ok, dai, ciao. E me che c'è? Ci vogliono anni, decenni per diventare un bravo musicista rock. A volte non ci vuole proprio niente. La casa di cura Eleonora Duse vi offre il primo corso per musicisti rock con la bocca. Con la bocca. Qual è il tuo strumento? Il mio è la batteria, senti qua. Invece il mio è la chitarra. Il mio è il basso. È facile diventare un musicista rock con la bocca. Non esitare, invia subito un SMS per il tuo provino gratuito al 335 100 7777 con la scritta